Noi fondamentalmente siamo donne cittadine che in questo momento hanno sentito il bisogno di prendere la parola e di esporsi, di chiedere al proprio comune di residenza di esporre il lutto e di uscire pubblicamente in modo chiaro contro quello che sta accadendo. Ecco, siamo donne cittadine, il riferimento alla maternità vuole essere simbolico, ci rifacciamo un po' a quello che la Muraro descrisse come l'ordine simbolico della madre, no? Quindi la capacità di tenere insieme corpo, parole, esperienze, linguaggio, e in questo momento crediamo che sia molto importante recuperare questa eredità del femminismo, e quindi la petizione nasce da questa postura. Nel concreto cosa chiedete al comune? Concretamente noi chiediamo di riconoscere pubblicamente quello che sta succedendo a Gaza, che è terribile perché le Nazioni Unite parlano di vero e proprio genocidio, sotto i nostri occhi, e siamo imbarazzate dall'ipocrisia e dalla lontananza di chi ci rappresenta. Quindi come cittadina abbiamo pensato di chiedere a chi ci è più vicino un segnale ai propri cittadini. Il comune, sono stati esposti segnali per quello che succedeva a Patrick Zaki, a quello che è successo a Regeni. Crediamo che in questo momento, dato anche il grande silenzio e il modo veramente poco chiaro in cui i nostri media stanno rappresentando quello che accade, sia possibile, sia doveroso invece come cittadine chiedere che almeno il comune di Bologna, che è conosciuto per essere così progressista, così avanti, così capace di prendere posizioni, no, anche contrarie a quello che è il pensiero dominante, ecco, chiedere questo in questo momento al comune di Bologna fosse il minimo che potevamo fare in questa circostanza. Una cosa importantissima di questa petizione è che non ci limitiamo soltanto a chiedere questo segnale simbolico di lutto al comune per queste migliaia di persone che sono state uccise, ma anche di esporci in modo concreto, chiedendo alla città di Bologna di scindere ogni relazione economica, culturale, diplomatica con lo Stato di Israele, fino a quando, come qualunque altro Stato che voglia dirsi democratico e civile, non avrà messo fine al brutale regime di occupazione e di apartheid in tutti i territori che occupa, in contravvenzione al diritto internazionale, alla Convenzione di Ginevra. Questo crediamo che sia quello che possiamo fare in modo laico, esercitando la lunga tradizione, no, di disobbedienza civile che anche in Sudafrica ha portato grandi risultati. Perché no, tra il nostro paese, tra l'Europa ed Israele, continuano accordi come se tutto andasse bene. Invece no, crediamo che abbiamo passato il limite questa volta. Siamo di fronte a qualcosa di terribile e dobbiamo in un qualche modo chiedere un segnale a chi ci rappresenta in questo momento. Come si fa a sottoscrivere la petizione? La petizione è online su change.org e basta andare su questo sito. Si intitola Chiediamo il lutto cittadino.